Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati con Nessun luogo è lontano, il vostro appuntamento con le notizie che arrivano dall'estero. I saluti e ben ritrovati vi arrivano anche da Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati in redazione e Andrea Roccabella in regia. Domande, commenti, ma anche suggerimenti sui temi che vorreste affrontassimo nelle 5 settimane di programmazione di Nessun luogo lontano al 349-238-6666, vale anche per WhatsApp, Twitter Nessun luogo 24 oppure il mio personale Giampaz, la pagina Facebook è Nessun luogo lontano trattino Radio 24. In questa prima pagina di Nessun luogo lontano attraversiamo l'oceano, andiamo in Venezuela, andiamo a Caracas. Esto es inconcebible cómo hacen que esta gente espere horas para comprar un simple kilo de carne. Que comience el desahogo, que voy a tirar unos cuantos pa'l lodo, dejándolo más feo y doblado que Guasimodo pa' terrata. Usted anda cagando fuera la lata, no me venga con embuste que tú eres tremenda larga. Escuchando in rete, soprattutto sui social e soprattutto su YouTube, si trovano parecchi video fatti da cittadini venezuelani che denunciano file davanti ai supermercati e sostanzialmente inaccessibilità ai generi, alle derrate alimentari di prima necessità. Di questa profonda crisi economica che sta diventando anche sociale e che avrà ovviamente anche risvolti politici ci occupiamo in questa prima pagina di Nessun luogo lontano. Lo faremo con molti ospiti, tra cui il primo che saluto, Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, profondo conoscitore dell'America Latina. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi, se riusciamo a stabilire il collegamento, ma che è un po' difficoltoso, Ignazio Pollini, coordinatore di CISV, che è un ONG, lui lavora proprio in Venezuela ed era in viaggio tra Mérida e Caracas, lo abbiamo appena sentito, adesso la linea non ci sta soccorrendo, ma cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile. La Cuarta República ya llevan 15 años ejerciendo de manera pública, expropiando, quebrando, robando, chupando, jalando, y la inflación aquí es la única que se le está lacriando. Si quieren me llaman porque fascito. Allora, abbiamo raggiunto Ignazio, mi fate cenno? Sì, ce l'abbiamo. Allora andiamo in diretta a Caracas. Ignazio Pollini, coordinatore di CISV, buongiorno, ben ritrovato in Nessun luogo lontano. Noi ci sentimmo, credo, 3 anni fa, Ignazio. Sì, 2 anni fa ci siamo sentiti, nel 2014. Hai un'ottima memoria, un'ottima memoria, migliore della mia. Allora, Ignazio, tu sei appena arrivato a Caracas. Qual è la fotografia che ci consegni della capitale venezuelana in questo momento, in queste ore? Sì, noi lavoriamo all'interno del paese, a Mérida, sulle Ande, quindi vediamo una differenza enorme da quello che è la situazione del paese rispetto all'interno, rispetto alla capitale, perché in capitale in qualche modo il governo cerca di mantenere le cose il meglio possibile per evitare rivolte popolari. Allora la mancanza dei prodotti che si sente molto forte all'interno qui non si vede in modo così radicale. Sì. Mi dicevi prima, lo possiamo confessare, fuori onda ci siamo sentiti, è stato scioccante per te poter andare in un forno e trovare del pane? Sì, noi sulle Ande a Mérida da parecchi mesi, ormai quasi più di 3-4 mesi, forse 2 mesi in particolare, i panifici non hanno quasi il pane. Il pane lo trovi dopo ore di coda e poi un panino regolato, un panino per persona. Allora stamattina finalmente sono andato al panificio a mandarmi il mio bel panino. Da buon italiano il pane per noi è fondamentale, o se no il pane che ti fai in casa, perché adesso bisogna arrangiarsi a produrti tu le cose, perché nei spazi pubblici non si trovano. Certo. Ignazio Pollini, tu sei coordinatore di CISV, che è questo ONG che da anni lavora in Venezuela. Che tipo di progetti stai portando avanti? Sì, noi stiamo lavorando fondamentalmente su 2 aree. Una è l'area di appoggio all'infanzia abbandonata nella zona delle Ande. Abbiamo vari progetti di appoggio a bambini di strada o bambini di zone rurali, di alta montagna, in zone molto povere. Appoggio di vari tipi, sia il tema di alimentazione, soprattutto il tema educativo. E poi un altro programma importante, che è un programma di formazione sul tema dei diritti umani attraverso un programma finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, il programma 8 per 1000, dove facciamo formazione per leader comunitari, per funzionari pubblici, studenti, sul tema dei diritti umani in generale. Abbiamo 12 diplomati in una piattaforma virtuale dove la gente, soprattutto la gente di frontiera, della zona di frontiera con la Colombia, può fare una sua formazione. Ecco Ignazio, torniamo invece alla fotografia che stiamo tratteggiando del Venezuela, attanagliato da questa crisi economica che dura ormai da mesi. Quanto c'è malcontento nella popolazione, soprattutto nelle zone rurali che sono quelle in cui tu vivi? Sì, beh, il malcontento lo si vede ovunque, soprattutto nelle grandi code, che è un paese di code. Da 2 anni tu ovunque devi fare code. Coda vuol dire 12-14 ore, tu per andare a un supermercato devi andare la sera prima, stare tutta la notte fuori e sperare che la mattina dopo, quando apre, abbiano almeno alcuni dei prodotti regolati a un prezzo regolato. I prezzi regolati sono i prezzi che stabilisce il governo per alcuni prodotti base, farina, pasta, riso, olio, a un prezzo collegato al costo reale degli stipendi. Certo. Se no ti tocca andare per strada e comprare nel mercato nero, dove trovi le cose a un prezzo moltiplicato da 50 a 100 volte. Quindi la gente popolare non può darsi il lusso di andare a comprare un prodotto che costa 100, comprarlo, pagarlo 1000 per strada nel mercato nero. È chiaro. E quindi grandi code continuamente in tutti gli spazi. E nelle code il malcontento... Il disagio, le lamentele e le dente sono enormi. Ecco, non è mai sfociata se non in grosse manifestazioni, ma non vi sono stati episodi di violenza, quantomeno la cronaca non ce li ha raccontati fino adesso. Episodi di violenza sono abbastanza continui, però molto repressi. Il problema della repressione della polizia e dell'esercito davvero in quest'ultimo anno e mezzo è diventata assolutamente radicale. Stavo leggendo ieri sera un report di un'ONG importante che fa relazione sulla violazione dei diritti umani. L'anno scorso sono stati 17.000 arrestati per questione di manifestazioni o comunque di rivolte popolari. Quest'anno il numero non è ancora stato stabilito, ma solo quest'ultimo mese ci sono 21 arrestati solo alla città di Merida, di persone che hanno organizzato marce e vengono subito etichettate come terroristi e come oppositori. E la repressione da parte dell'esercito, soprattutto la Guardia Nazionale, è davvero molto molto molto grave, soprattutto sulla questione della violazione del diritto, prima di tutto a un processo giusto, e soprattutto il tema delle torture, sì. Perché i report che stanno girando nelle reti sociali, il governo non le riconosce, però nelle reti alternative la violenza rispetto a chi fa proteste sono davvero molto molto gravi. Grazie. In termini di torture, violazioni, eccetera. Grazie, sì. Grazie mille per questa tua testimonianza, Ignazio Pollini, coordinatore di CISI Venezuela. Buon lavoro, davvero un grande in bocca al lupo, alla prossima. Perfetto, grazie a voi, a presto. Questo era Ignazio Pollini del CISV in diretta da Caracas. Lui sta a Merida, quindi ci ha raccontato quella che è la situazione nell'area rurale e quella che è la situazione invece nell'area metropolitana. Un paese alla cinghia, da mesi va avanti un isolamento nei confronti del resto del mondo. Un paio di volte l'apertura alla frontiera con la Colombia Nord ha permesso un'ossigenazione. Roberto Darin, l'inviato del Sole 24 Ore, che ha vissuto in America Latina, insomma conosce molto bene anche il Venezuela. È un quadro senza speranza, è una fotografia veramente tragica quella che ci è stata consegnata. Senza speranza direi di no, non vogliamo crederlo, anche perché in Venezuela c'è una comunità italiana ormai un po' diluita negli anni, però ancora piuttosto importante. Basti ricordare che fino ai primi anni 70 ci sono stati importanti flussi migratori dall'Italia al Venezuela, quindi senza speranza direi di no, però molto critica, perché da quando il prezzo del petrolio è crollato la situazione è peggiorata sensibilmente. Non dimentichiamo che l'80% delle entrate in valuta del Venezuela dipendono dal petrolio, e quindi Venezuela Saudita, con ironia, viene chiamata da sempre, e quindi è stato il colpo di grazia a un'economia già debilitata da politiche economiche che non hanno saputo rilanciare l'economia. Allora, in parte hai toccato due o tre temi che io vi voglio ricordare, perché prima di entrarci appunto nelle pieghe di questa crisi economica è bene fare un piccolo passetto indietro. Con le sue immense riserve di petrolio, il Venezuela è considerato l'Arabia Saudita dell'America Latina, ma nello stesso tempo si ritrova ormai con una inflazione schizzata al 700%, previsioni di un calo del 10% del PIL, un impressionante tasso di criminalità e interminabili code di affamati che premono alla frontiera con la Colombia per attraversare il confine e procurarsi cibo e medicine. Due anni dopo l'inizio delle proteste popolari contro l'aumento del costo della vita, da lunedì scorso il paese si ritrova a un bivio. Le opposizioni hanno raccolto un numero di firme sufficienti ad avviare un complesso processo referendario che potrebbe condurre alla fine del governo del presidente Nicolas Maduro entro la fine dell'anno. Salito al potere nel 2013 con la promessa di proseguire la cosiddetta rivoluzione bolivariana del suo predecessore Hugo Chavez, negli ultimi mesi Maduro ha tentato con ogni mezzo di fermare le ondate di proteste, tanto con l'appoggio della Corte Suprema che con continui provvedimenti autoritari per restringere le libertà e accentrare i poteri. Il tracollo dell'economia, sostiene il presidente, non è dovuto alle politiche sbagliate adottate dopo il crollo del prezzo del petrolio, ma ad attacchi degli imperialisti stranieri. Il Venezuela dello scomparso Hugo Chavez, che con le sue riforme in favore del ceto povero e le nazionalizzazioni delle grandi imprese si proponeva come modello alternativo per l'America Latina e per gli altri paesi in via di sviluppo, è ormai una nazione in ginocchio, che potrebbe presto vivere un nuovo sconvolgimento politico. Tutto questo, Roberto Darin, non avviene senza conseguenze per Maduro, perché c'è un procedimento in corso, un referendum, un revocatorio che si fa sempre più vicino, che però ha delle complessità. Aiutaci a capire che cosa sta accadendo. Stanno raccogliendo firme fondamentalmente per destituirlo. Esattamente, stanno raccogliendo delle firme per poter effettuare un referendum che viene chiamato revocatorio, che metterebbe fine alla presidenza di Maduro e si andrebbe così a nuove elezioni. In verità il procedimento è piuttosto complesso, perché sono state raccolte decine di migliaia di firme, ma il Comitato Nazionale Elettorale ne ha sancito l'irregolarità, nel senso che ha detto alcune firme non corrispondono a persone che effettivamente sono state interpellate, ne hanno apposto la loro firma, quindi insomma hanno ravvisato delle irregolarità. Ciò nonostante, in un primo momento è stato respinto, poi però, siccome le firme raccolte effettivamente erano moltissime, una parte consistente, il Comitato Nazionale Elettorale non ha potuto che confermarne la veridicità, quindi ha detto queste firme sono giuste. Si dovrebbe procedere quindi verso il referendum, ma tutto questo deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Diversamente, se si va a gennaio, si scavalla il periodo intermedio del mandato di Chavez e quindi non si potrà più accedere a un referendum revocatorio, ma di diritto entrerebbe il vicepresidente del paese, che è un vicepresidente di fede maduriana, è un fedelissimo del presidente Maduro, e quindi tutto questo finirebbe in una bolla di sapone. Ora l'opposizione pare molto determinata a procedere, ma sembra ci siano maggiori probabilità, però ora siamo ai primi di agosto e se tutta la procedura non dovesse essere terminata entro fine dicembre non se ne farà nulla. La speranza è che l'opposizione non commetta altri errori, perché va detto in questi anni ha fatto delle mosse false e ha sbagliato in varie occasioni, quindi anche l'opposizione ha la sua responsabilità. Non a caso la Chiesa ha avviato una mediazione per cercare di avvicinare al dialogo, creare un tavolo tra opposizione e governo di Maduro. La situazione è complessa, delicata, e per ora non ci sono soluzioni facili per problemi difficili. La crisi venezuelana ha parecchi risvolti e recentemente, come dire, aggiungere complessità a problemi già di per sé appunto complessi. Vi faccio sentire l'ultima puntata di En Contacto con Maduro, che è l'appuntamento settimanale che periodicamente il presidente tiene con i suoi cittadini. Lo fa sulla TV pubblica, lo fa sul suo blog, lo fa su YouTube. Ebbene, ha dovuto difendere una sua scelta. Aveva nominato di recente come ministro degli interni il generale Nestor Reverol, che era stato accusato dai servizi americani di essere un ingranaggio del sistema del narcotraffico che attraversa il paese. Quella stessa rotta che adesso i venezuelani affamati stanno facendo verso la Colombia a nord, ebbene quella rotta è anche quella utilizzata dai narcotrafficanti. Sentite. Expresarle toda mi solidaridad, todo mi apoyo personal como jefe de Estado, como jefe de gobierno, a él, a su familia, que ha sido agredida por el imperio norteamericano. Se trata del mayor general Néstor Reverol Torres. Ecco, Roberto Darin, che ruolo e che posizione ha il Venezuela nel traffico di droga? In realtà le cronache non è che siano ricchissime, no, di racconti da questo punto di vista. È anche vero però che è un paese che produce cocaina, il cui mercato di sbocco naturale sono gli Stati Uniti. È anche vero che però da ormai da anni i cartelli messicani hanno in qualche modo fagocitato sia il mercato in termini di commercio e sia le pagine, ahi noi, tragicamente dei giornali e dei media. Esattamente, è giusto quello che tu racconti, soprattutto per una posizione geografica. Il Messico ha maggiori facilità di esportazione di droga verso il mercato di sbocco più grande, più importante, che sono gli Stati Uniti. Il Venezuela, in quanto paese confinante con la Colombia, è un paese dove comunque la piaga del narcotraffico esiste e quindi è tutt'altro che superato il problema della coltivazione e della commercializzazione di droga. Ecco, nello specifico questo punto di domanda su questo generale, ci sono basi sulle quali insomma gli americani hanno fatto questa accusa? Immagino, però allo stesso tempo Maduro si è affrettato a difendere la sua scelta. Quantomeno questo generale è una figura con dei chiaroscuri. Allora, senz'altro una figura con dei chiaroscuri, però in questi casi è veramente difficile discernere e dirimere polemiche di questo tipo, perché sono, come dire, lotte intestine tra servizi segreti, servizi deviati, servizi americani, servizi venezuelani, quindi francamente è veramente difficile capire quanta implicazione ci sia e quanto invece sia stata strumentalizzata dagli Stati Uniti questa accusa. Sì. Di certo nelle accuse reciproche tra Messico e Stati Uniti, Venezuela e Stati Uniti, riguardo alle problematiche inerenti alla commercializzazione di droga, non si viene mai a capo di una verità definitiva, perché si rincorrono tesi, controtesi ripeto, il ruolo dei servizi segreti è sempre molto molto pesante, quindi sperare che ci sia una giustizia che possa dirimere e sancire in modo chiaro e unilaterale le responsabilità e i ricavi che vengono incassati, sì, da questa commercializzazione è sempre improbabile. Sì. Faceva riferimento anche alla nostra ricapitolazione a inizio di questa puntata: si è aperta con la Colombia un paio di volte la frontiera nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. In realtà di per sé la frontiera tra i due paesi è molto più chiusa, più impermeabile? Sì, la frontiera è impermeabile, è vero, però soprattutto perché i rapporti politici tra Venezuela e tra Caracas e Bogotà sono stati negli ultimi anni piuttosto controversi, perché non, sì, dimentichiamo che la Colombia è sempre stato un paese amico degli Stati Uniti, invece da quando si è avviato il chavismo bolivariano il Venezuela si è contrapposto duramente agli Stati Uniti, quindi per una trasposizione ovvia, gli Stati Uniti, il Venezuela e la Colombia hanno di fatto, non dico interrotto i rapporti commerciali perché così non è, ma allentato molto il dialogo politico, nonostante tra i due paesi ci sia sempre stato un intercambio importante. Certo. Ora, la riapertura è stata, va letto come un segnale di debolezza della presidenza di Maduro, perché è stato costretto in qualche modo ad aprire le frontiere a fronte di una crisi che diventava, come abbiamo ascoltato prima da Ignazio Pollini che vive in Venezuela e si occupa, se non sbaglio, di cooperazione, sì. La situazione alimentare si è aggravata e quindi Maduro è stato costretto ad aprire la frontiera per permettere degli scambi quantomeno di sussistenza di venezuelani che andavano in Colombia a comprare delle cose. Sì. Vi ho citato prima questo appuntamento periodico che il presidente tiene in contatto con Maduro, che va in onda sulla TV nazionale, sul suo blog, lo potete anche per curiosità andare a vedere, e sul canale YouTube ufficiale. Ve lo faccio sentire, sigla e saluti del presidente, perché poi da te Roberto vorrei una riflessione. Indestructible. Buenas noches Venezuela, patria amada, contacto con Maduro número 62, martes 2 de agosto, un saludo a toda Venezuela. Ecco, e mentre il presidente Maduro saluta il Venezuela, io saluto anche la nuova ospite di Nessun Luogo Lontano, Marinellis Tremamunno, corrispondente italo-venezuelana da Roma per El Nacional, il canale TV messicano Cadena Tres. Su Twitter è Marinellis con la York. Marinellis, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno, grazie per questa possibilità per parlare del Venezuela. Grazie a te della disponibilità, approfitteremo del tuo sguardo anche di cittadina venezuelana. A entrambi, sia Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore, che a Marinellis Tremamunno, vorrei chiedere questa esposizione, questa iperesposizione del presidente, questo presentarsi davanti al popolo, questo aprirsi, questo raccontarsi, è una specificità tutta di Maduro, tutta venezuelana o tutta dell'America Latina? Roberto Darin. Dunque, è interessante questo spezzone che è stato mandato in onda della trasmissione di Maduro, che si rifà nella modalità, nei toni, addirittura nel timbro della voce alla trasmissione che per molti anni ha mandato in onda l'ex presidente Hugo Chavez, si chiamava Allo Presidente. E anch'io ho dovuto partecipare varie volte prima di poter accedere a un'intervista con lui, quindi era un purgatorio che aspettava tutti i giornalisti che volessero avvicinarlo poi personalmente, perché la trasmissione durava ore e ore, un'intera giornata, a volte dalla mattina alla sera, ed è stato un canale di comunicazione privilegiato che Chavez ha saputo usare con grande maestria, perché si è avvicinato milioni di venezuelani e li ha saputi convincere, li ha saputi affabulare, era un grande comunicatore, e questo invece non è così per Maduro. Certamente Chavez poi ha sbagliato alcune impostazioni di politica economica, non ha saputo svincolare il Venezuela dal petrolio, sì, quantomeno allentare questo rapporto così stretto, e qui è stata la sua peggiore sconfitta politica ed economica, ma quantomeno aveva un grande carisma e la capacità di relazionarsi con i leader di tutto il mondo. Questo non è il caso di Maduro, che invece è un leader impacciato, che vive delle difficoltà enormi, che non ha un progetto, che continua né un progetto politico né ha mai prefigurato un cammino economico. Quindi questo è un po' il quadro. Marinellis Tremamunno, sei d'accordo? Manca a questo presidente il Venezuela che verrà? Manca una visione per il futuro? Sì, quello sicuramente. Condivido l'opinione del collega Roberto. Effettivamente Nicolás Maduro è una copia, o una bruttissima copia, del carisma che aveva Hugo Chavez, e questo lo possiamo evidenziare nei sondaggi. L'80% della popolazione rifiuta al personaggio o alla figura dell'attuale presidente Nicolás Maduro, a parte del tutto il problema della crisi economica e politica che sta vivendo il paese. Ecco, questa crisi economica che stiamo cercando di raccontare, che vi abbiamo restituito con una testimonianza da Mérida, ma anche da Caracas, quanto Marinelli Estremamunno sta colpendo chi questa crisi la deve raccontare? Cioè i media, in particolare i media venezuelani, i giornali, le televisioni, le radio, sono colpiti dalla crisi economica? Sì, sicuramente. Il problema è che la censura ormai è un'azione permanente del governo. Viviamo in un costante blackout informativo e abbiamo in Venezuela soltanto i social network per comunicare tra di noi. O sea, ci sono dei gruppi, ad esempio su WhatsApp, che le persone utilizzano per inviare dei messaggi e le notizie, perché purtroppo i media sono censurati in Venezuela. Vi posso raccontare, ad esempio, che l'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha conteggiato 2128 giornalisti aggrediti dal 2015. Poi tutti i media che sono stati chiusi, emblematici sono i casi da ricordare, ad esempio di RCTV, che è stata una rete televisiva chiusa nel 2007 da Chavez. Sì. Quindi stiamo parlando di un problema che viene da 17 anni, non è un problema che c'è da Maduro, il problema della censura. Quindi è stato un peggioramento continuo da 17 anni. Sì. E poi posso raccontare altri casi come Tal Quale o il giornale Correo del Caroní, che sono stati ridotti a settimanali per la scarsità della carta, perché un altro strumento che utilizza il governo per censurare i giornali è le restrizioni per l'acquisto della carta di stampa. Marinelli Estremamunno, ti interrompo, perdonami, a proposito di crisi economica, c'è l'informazione finanziaria, speriamo che le notizie siano un po' più rassicuranti. Roberto Reni, stai con noi, tra pochissimo Nessun Luogo Sarà Lontano. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovate, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questa lunga pagina di Nessun Luogo Lontano è tutta dedicata alla crisi venezuelana. Una crisi che innanzitutto è economica, ma sta diventando anche sociale e avrà e già ha profondi risvolti politici. A commentare, a analizzare, cercare di meglio comprendere questa crisi ci soccorre Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, che ben conosce quelle zone. Marinelli Estremamunno, corrispondente italo-venezuelano da Roma per El Nacional, fra l'altro lavora anche per la TV messicana Cadena Tres. Seguitela su l'account Twitter Marinellis. La domanda per entrambi, ma soprattutto per Marinellis: da cittadina venezuelana un po' ci hai già risposto, il presidente Maduro ha disatteso le aspettative del popolo, perché poi c'è anche un aspetto collegato, che è quello, se volete, del populismo, dell'iperesposizione anche attraverso questi messaggi televisivi, il voler arrivare alla gente, a tutto il popolo, però poi alla fine quanto l'ha disatteso? Telegrafica se riesci, Marinellis. Sì, evidentemente sono 17 anni di politiche economiche socialiste sbagliate che hanno portato al fallimento al paese. Adesso in più questo mancato carisma del presidente Nicolás Maduro, con il crollo dei prezzi del petrolio ci troviamo proprio in una situazione di fallimento totale. Il 76% della popolazione si trova in condizioni di estrema povertà, il Venezuela non ce la fa più. E per questo gli ultimi 4 anni sono andati via del paese il 7% della popolazione, quindi il flusso si è invertito. Una volta erano gli europei che andavano in Venezuela per lavorare, tra questi i miei nonni italiani, adesso il flusso è il contrario. Ecco, hai citato un aspetto che è estremamente interessante, perché il rapporto tra Italia e Venezuela, appunto prima il Venezuela era una sorta di Eldorado, una meta appunto per tanta immigrazione anche italiana, il legame però forte rimane tuttora. Tu che racconti l'Italia per il Venezuela, com'è la percezione del paese? Poi torno da Roberto Darin. Sì, in Venezuela c'è una comunità di circa 2 milioni di italiani e discendenti di italiani che stanno soffrendo questa situazione, e devo dire che il passato 27 luglio il Parlamento ha approvato una risoluzione dove chiede l'intervento del governo italiano per l'aiuto della comunità italo-venezuelana che sta lì con l'apertura del canale umanitario per l'invio dei medicinali, e chiede la liberazione di prigionieri politici e la realizzazione di questo referendum che viene ritardato continuamente per evitare, diciamo, il cambio di governo che evidentemente è già necessario in mezzo di questa crisi. Grazie, grazie mille Marinellis Tremanunno per queste sue opinioni, considerazioni e analisi. Una buona giornata, un buon lavoro Marinellis. La chiusura, la chiosa la riserverei per te, Roberto Darin. E se vuoi, da un lato si dice, beh, questo referendum potrebbe sancire veramente la fine di un lungo capitolo. Siamo davvero vicini alla fine del chavismo e di questo pezzo di storia del paese, dell'importante paese dell'America Latina? Guarda, questo non lo sappiamo, perché anche con la dipartita, la morte purtroppo di Chavez, molti avevano pensato che si svoltasse pagina. Invece, con un'ironia perfida, alcuni oppositori venezuelani parlano di necrofilia ideologica, nel senso che è morto Chavez ma non il chavismo. E quindi è difficile capire cosa possa succedere, anche perché nessuna forza politica in America Latina da molti anni si dichiara più di destra, perché non è più politically correct. Quindi indubbiamente potrebbe profilarsi una svolta. Al tempo stesso però l'opinione pubblica venezuelana ha incamerato di sicuro delle cognizioni di un sistema che non ha funzionato, però ormai ha anche immagazzinato l'idea che a votare ci si vada tutti e che alcuni piani sociali sono imprescindibili, tanto che gli aspiranti presidenti del Venezuela, chi si è leader dell'opposizione che si sono esposti di più negli ultimi anni, hanno sempre confermato che avrebbero reiterato, rinnovato i piani sociali che Chavez aveva fatto partire 15 anni fa. Quindi ecco come questo è lo scenario, lo scacchiere su cui si vedranno muoversi le prossime pedine. Indubbiamente questi 15 anni di chavismo, nel bene e nel male, lasceranno un segnale. Certo, e poi c'è anche tutto l'aspetto di politica, di assetti geopolitici, per cui Caracas e Venezuela è sempre stato anti-americano, un asse importante, no, nei grandi equilibri del mondo, quindi che era parte fondante anche del chavismo, e quindi se si dovesse mettere fine a quel capitolo, anche quell'aspetto, quindi degli equilibri generali delle Americhe, andrebbe rivisto, e quello insomma sarà anche molto molto interessante da osservare. Assolutamente, tanto che l'avvicinamento, la Pax Americana di Fidel e Raúl Castro con Obama ha in qualche modo scompaginato delle alleanze, perché Maduro e Chavez, per fortuna non ha visto, per fortuna sua non ha dovuto assistere a questo riavvicinamento, ma Maduro invece ha dovuto constatare che lo scacchiere su cui giocava la sua partita si è modificato, perché Chavez, perché Obama e i fratelli Castro si sono avvicinati e lui è rimasto scoperto. Quindi indubbiamente dovesse esserci un cambio di governo, anche le alleanze regionali verranno modificate. E quella storica dicotomia americana anti-americana, insomma, potrebbe essere rivista. Grazie mille Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore. Buona giornata e buon lavoro. Allora, 349-238-6666, se volete commentare i temi che stiamo dibattendo quest'oggi, lunghissima pagina, tutta dedicata al Venezuela. Perché? Perché la crisi dura da mesi, da settimane, e i risvolti e le conseguenze possono essere davvero importanti per gli equilibri dell'intera regione. Adesso però vi porto dall'altra parte del mondo, andiamo in Cina. Ecco, non è che Andrea Roccabelle, regia, è impazzito e ha tentato di unire, a fare un Frankenstein musicale, di unire due anime che non erano, non si potevano unire. Abbiamo provato a riassumere anche musicalmente l'anima, o meglio due delle tante anime della Cina. Una, quella che è più tradizionalista, e una più rivolta al futuro. Dal novembre 2012 il presidente cinese è Xi Jinping, una figura che secondo molti osservatori in meno di 4 anni ha accumulato un potere enorme, secondo solo quello a quello detenuto ai suoi tempi da Mao Zedong. In questi ultimi anni, dicono molti analisti, la situazione cinese è peggiorata su diversi fronti. Oltre all'economia rallentata, c'è un peggioramento delle relazioni con i paesi vicini, dal Giappone, l'abbiamo raccontato proprio ieri, fino al Vietnam e alle Filippine, e una stretta anche più severa sulla stampa e sul dissenso, mentre diminuisce anche l'accesso al mercato cinese delle aziende occidentali. E per raccontare la Cina, o un pezzetto di Cina, quest'oggi partiamo proprio da un caso che viene raccontato molto bene, fra gli altri, da Le Monde, quest'oggi in edicola. L'azienda è quella di Uber, l'azienda appunto ad alta tecnologia, quella, insomma, lo sapete, si prenota la macchina con l'autista, quella che entra in diretta concorrenza col trasporto pubblico e con i taxi. Ha provato a entrare in Cina Uber, ma è stata letteralmente mangiata dal suo concorrente cinese Didi Chuxing. Di questa rinnovata chiusura, ma anche di questo essere sempre comunque erma bifronte, un po' che guarda al passato, un po' che guarda al futuro, cerchiamo di entrare in questa anima cinese. Lo facciamo con Beniamino Natale, a cui do il mio buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, ex storico corrispondente dell'ANSA. Buongiorno Beniamino, ben ritrovato. Buongiorno, buonasera. Buonasera per te, giustamente. Sei ad Hong Kong, certo. se non erro, giusto? Non entri. Allora, Beniamino Natale, autore del La Cina, la grande illusione, che è un ebook edito da Informant, che in qualche modo tenta di analizzare questo meccanismo, questa che è stata una proiezione verso il futuro, una promessa di apertura, una Cina diversa che si apriva all'Occidente, e poi invece che cosa è successo? Beniamino, con uno slogan, poi dobbiamo fare una piccola pausa ma ritorniamo con te. Cos'è accaduto? Questa grande illusione è evaporata? Beh sì, cosa è successo? Tutta questa grande attenzione, tutta questa grande propaganda sulla Cina era basata su due assunti, uno dei quali era questo, che il mercato si sarebbe aperto, l'altro era che si sarebbe democratizzata, e nessuna delle due cose è successa. Adesso questo, 40 anni dopo l'inizio della riforma e apertura di Deng Xiaoping, questa è la situazione. E si va indietro invece di andare avanti, come questa vicenda di Uber dimostra pienamente. Adesso su Uber ci rientriamo, ma a proposito di automobili, andiamo a valutare la situazione sul traffico sulle strade italiane e poi di nuovo con Beniamino Natale da Hong Kong per parlare della grande illusione cinese. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Come ci suggerisce il tema musicale, andiamo figuratamente a Pechino con Beniamino Natale, che in realtà ci parla da Hong Kong ma per anni ha raccontato la Cina da Pechino per l'ANSA, e che adesso in un nuovo ebook edito da Informant ha deciso di raccontarla con una nota, diciamo, di nostalgia, forse adesso lo capiamo meglio. Cina, la grande illusione. Ma torniamo a questo caso di Uber, Beniamino Natale, perché l'azienda americana, che tanto ha fatto discutere anche in Italia ma e anche in altri paesi europei, ricordo la Francia, ha provato a entrare a gamba tesa nel mercato cinese, e la Cina però ha mostrato la sua più grande strategia, forse economica, no? Se non lo puoi battere, mangiatelo. Beh, non è la prima volta che succede, non è la prima a sbattere il muso in Cina. Sì. In Cina anche tutte le grandi aziende informatiche californiane, Google, Facebook, Twitter, sì, Amazon, tutte hanno fallito. Google è andata via ormai da anni, e invece di Google c'è Baidu, no? invece di Facebook c'è WeChat, invece di Twitter c'è il Weibo, cioè esiste quello che il New York Times ha chiamato un China Divide, cioè in Cina queste cose sono controllate dalle imprese o statali o fintamente private, in realtà sempre molto strettamente collegate al potere politico, al Partito Comunista, al governo. Sì. Perché questo succede? Perché è difficile muoversi in Cina, intanto si parla cinese e tutto il gran parte del pubblico cinese e dei milioni di utenti, una delle tante cose di cui si favoleggia, parlano in cinese, scrivono in cinese, leggono in cinese, quindi internet che è inglese fondamentalmente, l'internet che noi conosciamo e che tutti quanti noi frequentiamo in Cina è conosciuta e frequentata da una piccolissima parte degli utenti, la maggior parte sono su questa internet cinese, in cinese per i cinesi, controllata brutalmente dal governo, dallo Stato cinese. Chiarissimo, insomma, quello che è stato creato è stato uno standard alternativo per cui su WeChat fai tutto quello che ti serve e nella tua lingua, perché mai dovrei andare su Facebook? Poi in realtà anche il grande muro, la grande barriera si può girare con i VPN, insomma, per cui sostanzialmente fai finta di trasmettere da un altro posto nel globo, però sostanzialmente non ne hai quasi bisogno. Beniamino Natale, abbiamo pochi minuti e poi c'è un altro ospite che tu conosci bene, Alessandro Di Gaetano, a cui do il mio benvenuto. Di Gaetano, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Salve, grazie per avermi chiamato e un saluto al mio amico lontano Beniamino, che siamo dall'altra parte del mondo in questo momento. Allora, Alessandro Di Gaetano, cioè, fotogiornalista. Buon compleanno, grazie Beniamino. Grazie Beniamino. Li ho ricevuti anche i tuoi privati e sono meravigliosi. Va bene. Okay. È molto divertente questa piccola parentesi in cui stiamo facendo perdere formalità al programma, vabbè, ma si può fare, dai, al sesto anno. Allora, Alessandro Di Gaetano, fotogiornalista, vincitore WordPress Photo nel 2005. Nel libro Cina, la grande illusione, ci sono anche delle tue immagini, e fra un secondo, prima dell'ultima domanda per Beniamino, ti chiederò conto di queste tue immagini. Beniamino Natale, una delle grandi illusioni, se ho ben capito, anche dopo una brevissima missione che ho potuto fare a Pechino e a Shanghai, era: una volta c'era quantomeno un esercizio di democrazia all'interno del Partito Comunista, per cui quelle che erano le dinamiche della normale democrazia venivano svolte all'interno del partito, che è l'unico partito, però almeno c'era un dialogo, c'era una dinamica. Adesso non c'è più. Questa forse è una delle più grandi illusioni. Esattamente. Adesso c'era per alcuni anni, diciamo i primi anni che io sono stato in Cina, dal 2003 fino al 2006-2007, c'era una grande, adesso non so dire, nessuno lo sa dire quanto grande, ma sicuramente c'era una parte del Partito Comunista, dei funzionari delle province e del centro, che erano e si muovevano anche loro in questa ottica di una futura ipotetica democratizzazione. Sono spariti, non rispondono al telefono, non rispondono alle email, non parlano pubblicamente, io suppongo che siano ancora da qualche parte, ma certamente sono ridotti al silenzio in questo accentramento. E mi sa che eccolo. No, sì. Beniamino, abbiamo perso l'ultima parte della tua frase. Eccoci. Scusa, vi dicevo, queste persone che una volta in qualche modo a mezza bocca, ma comunque si incontravano e parlavano, sono sparite negli ultimi anni, diciamo a partire dal 2008, quindi prima di Xi Jinping è cominciata questa svolta, che poi Xi Jinping ha sancito, diventando, no, se guardiamo la successione dei numeri uno a Pechino, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Mao Zedong potere assoluto quasi, Deng Xiaoping un po' meno di Mao Zedong, Jiang Zemin ancora meno di Deng Xiaoping, Hu Jintao, che è stato forse veramente l'unico primo inter pares che gestiva una leadership collettiva, poi adesso abbiamo fatto questo salto indietro a Xi Jinping, il quale ha praticamente esautorato tutti gli organi di partito e comanda lui attraverso questi gruppi speciali dedicati ai vari problemi che sono nominalmente presieduti da lui e di fatto dai suoi uomini, e quindi questi sono quelli che determinano la politica attuale della Cina. Questa e altre illusioni, ma anche insomma ritratti della Cina e analisi di quella che è stata la politica negli ultimi anni nel libro La Grande Cina, La Grande Illusione, Beniamino Natale, con le foto che ringrazio. Buona giornata e buon lavoro, Beniamino, anzi buona serata, buonanotte oramai. Alessandro Di Gaetano, fotogiornalista, WordPress Photo nel 2005, alcune delle tue immagini sono dentro a questo libro. E a me intriga sempre avere ospite i fotografi, perché molto spesso in poche parole, qui le dobbiamo tradurre con poche parole le immagini, ci restituiscono anni e anni di storia. Se dovessi scegliere due scatti tra quelli che hai inserito nel libro che raccontano questa Cina che cambia, quali scatti ci consegneresti e ci racconteresti? Guarda, io delle immagini che sono a compendio del bellissimo libro di Beniamino, ho pensato a una che... erano gli anni della costruzione, no? io sono arrivato in Cina nel 2002, quindi credo quella foto fosse proprio del 2002 o del 2003 al massimo. Sì. E c'è stato questo venditore di frutta con un carrettino nella notte sotto dei palazzi che stavano per essere distrutti, tutti neri, bui, e alle spalle invece ci stanno questi palazzi luminosi, meravigliosi, che appunto, forse rifacendosi al titolo, La Grande Illusione. In effetti, quando c'è il momento della distruzione, che quindi comunque ha le sue drammaticità, c'è un senso di speranza comunque, perché comunque c'è un'illusione, una speranza che qualcosa possa andare meglio, che possa essere meglio di quello che era. In effetti, quando c'è stato Hu Jintao, sono stati, secondo me, degli anni quasi illuminanti, illuminati proprio in Cina. E questa speranza era palpabile, una speranza palpabile delle persone che ora Beniamino non riesce nemmeno più a contattare, a quanto pare, e che dava comunque una grandissima energia a noi che eravamo lì e anche ai cinesi che si stavano vivendo questa emozione. Certo. La seconda immagine invece che va a chiudere un po' il ciclo è che quella lì che è una notturna dove si vede in lontananza, sempre più lontana, la città proibita, dove il potere assoluto, che si riflette nelle acque dell'Opera House di Paul Andreau, che sono queste opere meravigliose, per me, insomma, comunque bellissime, dell'architettura che comunque hanno costellato gli anni illuminati della Cina. E si vede riflettersi nelle acque scure di questa opera che è fantastica, però è lontana, è molto lontana, è illuminata, è tutto molto bello, però è tutto molto lontano. E, insomma, diciamo che quindi in qualche maniera io ho sentito nell'aria, appunto, io sono tornato spesso in Cina comunque, anche dopo essere tornato... aver più abitato lì, e in effetti c'è stata questa sensazione di distanza, di quella speranza un po', ecco, quella che io chiamo speranza più che illusione, perché sono ottimista, insomma si è un po' allontanata e il potere si è chiuso lì, arroccato, circondato dalle acque come un vecchio castello, lasciando a noi poveri cinesi e terreni le bellezze però estetiche. Invece la sostanza, a quanto pare, Beniamino l'ha raccontata meglio di me. Beh, d'altra parte, ognuno il suo. Se volete gustarvi le immagini Alessandro Di Gaetano, cercatelo in rete oppure vi comprate il libro Cina, la grande illusione, troverete alcune delle sue immagini. Grazie mille, Alessandro Di Gaetano, fotogiornalista, WordPress Photo nel 2005. Buona giornata e buon lavoro, Alessandro. A presto. Grazie. E dopo questa altrettanto corposa pagina, tutta dedicata alla Cina, forse dovrei dire alla Cina che sarebbe potuta essere, insomma, raccontata dalle parole di Beniamino Natale, che ho avuto la fortuna di incrociare a Milano, e quando si incontrano questi vecchi corrispondenti, beh, insomma, tra aneddoti, tra racconti e tra analisi, è sempre un bel piacere, cibo per la mente, come si dice. E poi, insomma, se aggiungete un po' di immagini, voi sapete quanto mi piaccia e quanto apprezzi il lavoro dei fotografi, insomma, combinazione magica è fatta. Manca un minuto, titoli di coda. Con i quali ringrazio Andrea Roccabella, che ha dato musica e ritmo a questa puntata, Antonio Talia, che ci ha messo un po' di Cina, un bel po', Silvia Marnati e Leonora Aragona, che l'hanno confezionata con me, voi per essere stati all'ascolto, i tanti che hanno scritto, c'è qualcuno che ci sollecita a parlare di Libia, lo faremo sicuramente nei prossimi giorni, ma avete capito che inseguiamo l'attualità, ma ci piace anche un attimo prenderci una pausa, riflettere e poi raccontarvela. Ringrazio appunto per essere stati all'ascolto, l'appuntamento è per questa sera ore 21 per la replica e poi domani alle 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.